Ferry Boat, in viaggio verso l'economia sociale. Il sergante e il traghettatore. Cominciamo questa puntata pre-natalizia con un suggerimento: usate meno l'automobile, o meglio, usatela meglio. E per questo vi segnaliamo BlaBlaCar, scritto proprio così, blablacar.it, che è un portale che ha una forte impronta social e mette in contatto i conducenti e i passeggeri che vogliono condividere posti auto e viaggiare in compagnia per risparmiare soldi nel rispetto dell'ambiente. È stato calcolato che un viaggio da Roma a Milano, per esempio, costa solo 30 euro e si riduce l'emissione fino al di CO2 fino al 75%. Mancano solo 2 giorni a Natale. Il primo pensiero, il più importante, va ai bambini, come ogni anno. È con noi Marco Griffini, presidente di AIBI. A lui la parola perché tutti noi ci si possa ricordare che ci sono tanti bambini che soffrono nel mondo. Marco Griffini. Sì, il Natale proprio dovrebbe essere la festa dei bambini per eccellenza. Noi padri, noi madri aspettiamo questo giorno, ci ricordiamo di quando eravamo così dei bambini anche noi. Ci sono purtroppo oggi nel mondo 168 milioni che fra 2 giorni di questo Natale non potranno festeggiarlo, perché sono 168 milioni di bambini senza genitori, senza un papà e senza una mamma. Mangeranno così la cena di Natale sempre nei loro freddi istituti o nelle comunità educative. Noi come Amici dei Bambini abbiamo lanciato proprio una campagna per questo Natale che finisce proprio stasera, per cui ci sono ancora poche ore per mandare un SMS, una telefonata al 45505, che è il numero della speranza. Ecco, noi con questa campagna che abbiamo lanciato non lasciamoli soli, stiamo costruendo case famiglia. Abbiamo aperto proprio pochi giorni fa la prima casa famiglia in Kosovo, una realtà, un piccolo paese che però vuole non lasciare i bambini negli istituti. Abbiamo creato dei centri servizi. Ecco, questa campagna a 45505 vuol dire telefoniamo, diamo una telefonata per far sì che anche in questo Natale uno di questi 168 milioni di bambini possa il prossimo Natale passarlo in casa. Quindi veramente l'appello che Amici dei Bambini fa. Questa è una campagna importante, è una campagna che proprio deve guardare negli occhi i nostri figli. Guardando negli occhi i nostri figli, noi possiamo pensare effettivamente che uno di questi bambini potrebbe essere anche nostro figlio. Quindi l'invito, proprio come padre, 45505, proprio per dare un futuro, un Natale a uno di questi bambini abbandonati. Non siete soli, quest'anno con voi c'è anche Max Laudadio, vi sta aiutando, è inviato di Striscia la Notizia, sta sostenendo la vostra campagna. Sì, è il nostro testimone che ha conosciuto proprio la realtà dell'abbandono con un servizio di parecchi anni fa in Striscia la Notizia, un'inchiesta che ha fatto proprio negli istituti della Romania, dell'Ucraina, della Moldova, e avendo toccato con mano questa realtà dura, questi bambini che vivono negli istituti, ma fuori ma anche nel cuore, proprio si è dichiarato al nostro fianco per portare avanti questo messaggio, no? Che è un messaggio che deve arrivare effettivamente al cuore delle famiglie, perché questi bambini non hanno solamente noi, quindi si invitano proprio a lanciare questo grido, no? Bene, l'ultima volta ricordiamo il numero, Presidente. Il numero è 45505, numero facile 45505, un SMS, una telefonata da telefono fisso per dare una speranza a uno dei 168 milioni di bambini abbandonati che oggi vivono nel mondo. Grazie. Una circonferenza lunga come l'Equatore, pensate. Grazie Presidente, ci pensiamo davvero su e invitiamo i nostri ascoltatori a farlo. Chiudiamo con una curiosità, in realtà anche se è una curiosità certo non piacevole. Per una volta il marketing suggerisce soluzioni contro la crisi, acquistando prodotti in Euronics, fra l'altro questo fino a domani soltanto, si ricevono in omaggio dei buoni acquisto alimentari, possono essere utilizzati anche in ristoranti e pizzerie, sono decisamente il segno della crisi, di come anche il marketing corre in soccorso di chi, come si dice in questi casi, non arriva alla fine del mese. È tutto per oggi. Grazie ad Anita Panizza in redazione e a Gianmarco Ferronato in regia. Auguri di buon Natale a tutti.